La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini. La maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole. La storia iniziò con un giovane musicista autodidatta che, vincendo le resistenze della famiglia che lo voleva avvocato, si approfondisce i propri studi musicali, erano stati impartiti dal nonno materno, all'inizio droghiere in Vercelli sfortunato, ma ottimo flautista, buon violinista. È una passione che coltiva per il resto dei suoi giorni. Quello che sentite è Bruno Finzi. Dietro la compostezza di quest'uomo dovete immaginarvi un bambino. Suo padre si chiamava Aldo, era un giovane musicista italiano di religione ebraica e questa è la sua musica. Aldo nasce il 4 febbraio del 1897, vive e studia a Milano, si laurea in giurisprudenza e intanto compone musiche così belle da essere pubblicate da Ricordi. L'ausenza, l'ausenza. È un ragazzo con un talento grande. Si sposa, ha due figli e una moglie. Lavora come avvocato, ma il suo cuore è tutto per la musica. È un amore che dà ad Aldo immense soddisfazioni. Nel 1937, infatti, il Teatro alla Scala tiene un concorso per una nuova opera da eseguire la stagione successiva. Finzi partecipa con La Serenata al Vento. A un certo punto presentò, mi ricordo, questa opera che aveva composto intorno ai 31-32, insomma, quando aveva 35 anni, a una specie di concorso che c'era a Bologna, Toscanini e Pizzetti fra i membri della giuria, e ne uscì un elogio, un apprezzamento. Quando ci fu bandito un concorso per un'opera nuova alla Scala, presentò questa stessa opera ed ero con lui in galleria, presso poco dall'incorso dove sono i due bacci, insomma, verso via Foscolo, verso il Savini per intenderci. Proprio sull'angolo, un giorno ero con lui nell'autunno del 37, quando si presentò, venendo da Piazza della Scala, il maestro Pic Mangiagalli si avvicinò al più giovane maestro e disse: senta maestro, non dovrei dire, buffa frase, vero? Ma la sua opera ha vinto il concorso per l'opera prima, rivolgendosi a me che conosceva, io ero già un ginnasiale, e mi girava per il conservatorio. Domani portami un certo numero di libretti dell'opera che decidiamo per costumi e scenari. Questo lo dico tra virgolette, ma sono proprio le parole che pronunziò. Grande gioia di mio padre, naturalmente, poi silenzio. E allora mio padre non sapeva come giustificarlo, questo silenzio, dice: ah, ma allora qui vengono anche qui le leggi razziali, come in Germania. Ah, perché non glielo comunicarono poi ufficialmente, silenzio, per via della religione? Li rimandarono come in un pacco la partitura e gli spartiti. E però io sono grato alla Scala, vede dottoressa, perché non fece vincere un altro era facile, invece preferì mandare il concorso praticamente non deserto, nel senso che non c'erano altre partiture, ma nessuna degna di essere eseguita. Quindi un bel gesto da parte della Scala, anche se poi non l'ha più mai più badato a questa propria creatura, in un certo senso. Dunque, l'annuncio ufficiale, quella possibilità di vedere eseguita l'opera prima, non arriverà mai per via delle leggi razziali fasciste. Finzi non poté più eseguire la propria musica e assieme alla famiglia fu costretto a vivere in condizioni di gravissima difficoltà, inventandosi qualsiasi cosa pur di sopravvivere. Un giorno le SS arrivarono nella casa dove i Finzi si erano nascosti. Erano non più a Milano ma a Torino. Il padre Aldo era via nel momento in cui i fascisti irruppero nel nascondiglio. Le SS presero il piccolo Bruno, un ragazzino. Qualcuno avvertì Aldo dell'accaduto. Il padre corse a perdifiato, supplicò i fascisti che prendessero lui e che lasciassero stare la sua famiglia. Così racconta Bruno. E chissà con che cuore straziato ha fatto quella breve salita, quel breve percorso, qualche centinaio di metri forse, per venire a consegnarsi. Mia madre fece una scena dal manicomio, ma io non sentivo però. Sentivo delle voci, ma non mi azzardai ad uscire. Papà questa volta ci portano via tutti. Mi portò la mano al petto e disse, mi è sembrato di sentire come se mi avessero ferito al cuore. E fu un'autodiagnosi, perché di lì a pochi giorni ebbe un infarto, il giorno che compiva 48 anni. E morì sotto falso nome. Silenzio poi sulle musiche di mio padre, silenzio, silenzio. I fascisti vollero essere pagati e lasciarono infine in pace la famiglia Finzi, almeno per un po'. Tu pensi che i tedeschi ci odino così tanto da nasconderci la linea del fronte solo per farci dispetto? Che cosa gli abbiamo fatto? Non lo so. Steitel, steitel, steitel, non oubli pas steitel. Suis parti un jour en train pour aller très loin. Steitel, steitel, steitel, n'efface pas les yeux des gens, c'est ce qui me tient encore en vie, leur sublime folie, leur sublime folie. Train de... Questa è la storia di Aldo Finzi, un ragazzo italiano, musicista, compositore di grande talento. Vinse con questa musica nel 1937 un concorso per opera prima alla Scala di Milano. La sua opera non fu mai eseguita perché entrarono in vigore le leggi razziali e Aldo era ebreo. Prima di morire disse: «Fate eseguire la mia musica, un sogno consegnato ai figli». Questa è la prima volta di un concerto che doveva tenersi più di 70 anni fa alla Scala e che alla fine si è tenuto al Teatro Donizetti di Bergamo. Alla fine, perché in mezzo c'è tutta una parte di storia che riguarda anche Bruno Finzi, il figlio di Aldo, che giovane, ormai finita la guerra, si trova a conservare la memoria di un padre e di un'opera mai eseguita. Poi però qualcosa accade. Poi ci sono dei casi curiosi per cui questa musica ritorna alla luce. Quando ero lì solo a Torino, non conoscevo nessuno, sbalestrato, avevo 15 anni, studiavo privatamente, mio padre non volle che andasse alla scuola ebraica, e pur essendo lui molto profondamente credente, ma non voleva, perché era ammettere qualcosa, insomma. Lui non voleva neanche le carte di identità false, perché diceva che era un reato. E, beh, insomma, allora l'insegnante ebbe un po' compassione di questo ragazzo così solo, senza compagni, senza amici, e mi presentò una sua nipotina, 3 anni meno di me, proprio quasi una bambina, insomma, e che ogni tanto mi faceva compagnia. Lei aveva compagni a scuola, andava a scuola ebraica. Beh, insomma, nacque un'amicizia tra ragazzini, e 12 uno, 15 l'altro. Poi la guerra ci separò, i bombardamenti, ci nascondemmo tutti quanti. Lei andò in Svizzera. Dopo la guerra la ritrovai a Milano, sposata con un medico, e aveva avuto dei bambini, e una di queste era una molto dotata per la musica, convinse un concorso al Conservatorio di Brescia, ebbe una cattedra. Un giorno tornava a Milano e disse alla sua mamma, eravamo rimasti così in relazioni, ma abbastanza cordiali, ecco. Sono stufo di suonare sempre le stesse cose, siamo ormai negli anni 90, 92, e sono stufo di suonare sempre le stesse cose, e piacerebbe suonare qualcosa di nuovo. La sua mamma si ricorda di me e del mio papà e dice: prova a chiedere a Bruno, che sono io, se ha qualcosa di suo padre ancora. La giovane donna viene da me, le do 6 liriche, perché tante cose erano andate perdute, 6 mi erano rimaste e sono ancora qui. E cominciò a suonarle. Così si riprese a suonare la musica da camera di mio padre. Si incise anche sempre per iniziativa di questa pianista che si chiama Simonetta Heger. A dicembre del 2012, dopo tanta attesa, a Bergamo, in una sala gremita, va in scena l'opera di Aldo Finzi. Molti tra gli spettatori conoscono questa lunga storia, altri sono lì quasi per caso. In prima fila c'è Bruno, il figlio, che con il padre ha condiviso il dolore delle leggi razziali e l'umiliazione di vedere mortificata l'arte paterna. Come, non so, per quali sinergie, ecco, per quali... sì, la Regione Lombardia, questa Jerusalem Foundation, ma non lo so, per me è un po' un miracolo, guarda. E lei dov'era quando è stato eseguito il concerto in prima fila? Che cosa ha provato? Cosa ho provato? Non una nobile risposta, ma ho detto una rivincita. E poi qui è un tedesco che è venuto a parlarmi, un critico tedesco, un certo Beck. Venerdì, questo ho detto, i tedeschi lo chiamano così, revanche, è una parola francese ma loro la usano, un revanche, sì, c'è questo senso di non nobile da parte mia, ma pure è così che sento. D'altra parte, c'è sempre, rimane sempre una delusione, perché ecco, un altro suo collega proprio a Bergamo mi ha chiesto: ma suo padre se lo sarebbe immaginato così lo spettacolo? No, se lo immaginava la Scala, rutilante, insomma, è un bellissimo teatro, intendiamoci, quello di Bergamo, devo gratitudine a tutti, strepitoso, ma incredibile in un certo senso, però insomma, quella Scala, la mia risposta che ho dato Andreotti: no, onorevole, se era la Scala, adesso è la Scala, ecco. Quindi, come vede, felicissimo di quello che è avvenuto, perché mio padre, le ultime parole che mi ha detto, che ci ha detto, sono state: fate eseguire la mia musica. Poi ha chiuso gli occhi. E quindi a questo si è riusciti, era l'ultima cosa inedita, però mi rimane quello, rammarico forse infantile, perché non la scala. La prima volta termina qui. Potete riascoltarci in podcast. Abbiamo una pagina Facebook e potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli, a domenica prossima, sempre attorno alle 13. Long as stars are in the blue, long as there's a spring, a bird to sing, I'll go on loving you. Till the end of time, long as roses bloom in May, my love for you will grow deeper with every passing day. I'll be there for you, to care for you, through laughter and through tears. So take my heart in sweet surrender, and tenderly say that till the end of time.